Adieu, pobre Carnavas. Adieu, paure, adieu, paure, adieu, paure, Carnavas. Tu t'en vas et il m'entuerni, adieu, paure, Carnavas. Adieu, ta bella jeunesse, vai ti siès pour un diverti. Ci ascolta ben compare giamo ci ascolta ben si che ti giu ci ascolta ben compare giamo ci ascolta ben si che ti giu si che ti giu si che ti giu si che ti giu si che ti giu ci ascolta ben compare giamo ci ascolta ben si che ti giu ci ascolta ben compare giamo ci ascolta ben si che ti diu. Adieu paure, adieu paure, adieu paure Carnavas. Tu t'en vas e io m'entuerni, adieu paure Carnavas. Adieu tu che ti chala Sies vista dura, adieu leso che scampavo a rola roda vira. Ti fo cambiar de regime e si vuoi palu subir per ti punire tei crime. Ci ascolta ben compare giamo ci ascolta ben compare giamo ci ascolta ben si che ti giu ci ascolta ben compare giamo ci ascolta ben si che ti giu adieu paure adieu paure adieu paure Carnavas tu t'en vas et io m'entuerni adieu paure Carnavas adieu viei paure dei visi lucare giunde la giustizia adieu tu che vas creva tu lo popolo ti saludo e o sento ne tu ten vas ta darnieru es vengudo adieu pare ci ascolta ben compare già ci ascolta ben si che ti diu ci ascolta ben compare già ci ascolta ben si che ti diu si che ti diu si che ti diu si che ti diu si che ti diu ci ascolta ben compare già ci ascolta ben si che ti diu ci ascolta ben compare già ci ascolta ben si che ti diu.